In attesa che domani, lunedì 12 gennaio, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei Deputati esprima parere negativo all'arresto dell'onorevole Previti, cosa che in fondo non ci dispiace perché siamo contrari alla carcerazione in genere, ma un po' ci addolora perché sono sempre i tipi come l'onorevole Previti che se la cavano, e poi non è bello assistere allo spettacolo di 21 eletti del popolo 21 che fingono di discettare di argomenti seri come il fumus persecutionis, che essendo in latino deve essere serissimo, quando tutti sanno che il problema vero è quello di capire se Berlusconi ad arrestargli l'avvocato si arrabbierebbe al punto da mandare a quel paese le intese sulla bicamerale. In attesa dunque di tutto questo, non dimentichiamoci di rileggere il fondo che il 6 gennaio ultimo scorso, giorno della Befana, il noto Indro Montanelli, nella sua qualità credo di portavoce dell'Ulivo, ha scritto sul Corriere della Sera per spiegare da par suo perché quell'arresto non si abbia da fare. Se ne è già parlato, c'è già stata qualche polemica, ma è un documento di un interesse straordinario. E dunque, perché Montanelli, con l'ovvio scopo di rallegrare dei lettori a cui prevede di dover dare una delusione, comincia col dire che lui, a uno con la faccia come l'onorevole Previti, se fosse addetto, lui Montanelli, alla pubblica sicurezza in un regime di polizia e lo incontrasse per strada, metterebbe le manette ancora prima di invitarlo a fornire le generalità. Non è un grande argomento, possono prenderlo sul serio soltanto quelli che decidono di attaccarlo, come ha fatto Giuliano Ferrara, però tutti ridono di cuore lo stesso, e d'altronde poche righe più in là l'editorialista provvede a pararsi le chiappe dicendo, nello spirito della par condicio, che anche la faccia del senatore Di Pietro in sé è ben poco tranquillizzante. Però in mezzo a queste due incursioni nel campo della prosopologia, che interessano solo fino a un certo punto, c'è spazio per l'argomento vero e proprio, per l'argomentazione autentica, che è la seguente. Perché i giudici vogliono arrestare quel deputato? Per impedirgli, dicono, di inquinare le prove. Ora, lui Montanelli non sa con esattezza di che cosa Previti sia stato accusato né su quali elementi si basino le accuse, e lui i giornali non li legge, si limita a scriverci, no? Però è sicuro che se qualcosa da inquinare c'era, un navigatore di lungo corso come lui e come lui esperto di procelle ha già provveduto ad inquinarla quando aveva in mano le carte per farlo, cioè quando le sue promesse erano credute e le sue minacce temute. E adesso cosa volete che faccia quel povero uomo? Processiamolo pure se i giudici ci tengono davvero, ma metterlo in prigione, su via, sono cose che non si fanno. Come a dire che se Previti per caso è innocente, prove non ce ne sono, se per caso è colpevole non ce ne sono lo stesso perché le avrà senz'altro distrutte. È un dilemma che va ben oltre il caso personale, tutti potrete cogliere l'eleganza astratta e l'altissimo livello di applicabilità. Lo si può applicare di fatto a una gran quantità di persone, a tutti no. A tutti no, perché c'è una condizione che a Montanelli non deve essere sfuggita, che siano o almeno siano stati uomini di potere. Perché chi è uomo di potere, delle prove contro di voi può riccamente sbattersene. Chi di potere non ne ha, prove o non prove, in galera ha parecchie possibilità di finirci, e può star sicuro che Montanelli non perderà tempo a rammaricarsi per lui. D'altronde non potremmo negare che il personaggio ragiona con coerenza. È il decano della stampa italiana, è da 60 anni sulla breccia e il potere lo ha sempre ossequiato, ha piegato il capo al fascismo fin quando il fascismo non ha cominciato a vacillare, ha difeso ad oltranza perché per via dell'anticomunismo quel regime democristiano che faceva capire di disprezzare, ha cavalcato con il suo giornale la grande ondata di destra degli anni 80, adesso che comanda l'Ulivo è un aperto sia pur riluttante ulivista. Vi dirò, una delle cose che mi rallegrano, nella prospettiva per altri versi un po' deprimente di non essere destinato ad avere mai potere alcuno, è proprio quella che così sono sicuro che non avrò mai Montanelli al mio fianco. Don't know much about history.